GR24, il sole 24 ore. Trovato l'accordo a Bruxelles sugli aiuti alla Grecia, lavori ufficiali in ritardo a causa del maltempo. Iran, scontri e spari in piazza nell'anniversario della rivoluzione islamica. Sul web rimbalza la notizia, uccisa una giovane donna. Bertolaso indagato, dovrebbe dimettersi, dice Franceschini, a metterlo nei guai alcune intercettazioni. Non ha ancora preso il via, ma già ci sono i primi sospetti di doping alle Olimpiadi invernali di Vancouver. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. A Bruxelles dunque prende il via questa mattina il vertice straordinario europeo che deve discutere della crisi greca. Nella mattinata, in attesa che partissero i lavori ufficiali in forte ritardo per il maltempo, molte le consultazioni con il premier greco Papandreou e non solo, e pare che queste consultazioni in qualche modo siano andate a buon esito, perché poco fa è arrivato un annuncio importante, ce ne riferisce Simone Spezia qui in diretta con noi. Sì, buongiorno Maria Piera, buongiorno agli ascoltatori. Ci sono due dichiarazioni, vi do l'ultima in ordine di tempo, che è arrivata un attimo fa ed è della cancelliera tedesca Angela Merkel, che dice l'Unione Europea non lascerà cadere la Grecia. Per quanto riguarda invece la dichiarazione di cui parlavi poco fa, è una dichiarazione di Van Rompuy, che è il presidente stabile dell'Unione Europea, questa nuova figura inaugurata da poco, che dice: abbiamo trovato un accordo. Il vertice in realtà non è ancora iniziato, come dicevi nei titoli c'è stato un problema di maltempo anche a Bruxelles e quindi il vertice è iniziato con un certo ritardo di 2 o 3 ore circa. Non è ancora ben chiaro come si possa attuare il salvataggio della Grecia, perché ci sono dei dubbi sul fatto che i regolamenti europei non consentano sostanzialmente un prestito europeo ad un paese dell'Eurogruppo. Certo è che c'è un interesse forte da parte di Francia e Germania al salvataggio di Atene, perché insieme Francia e Germania, e quindi due, chiamiamoli così, azionisti forti dell'Europa, detengono il 39% del debito pubblico ellenico. Quindi non è solamente una questione di altruismo nei confronti di un altro paese europeo, ma anche una questione di egoismo, chiamiamolo così, da parte di Francia e Germania. Per il momento è tutto. Grazie Simone Spezia. Torniamo invece alle manifestazioni e agli scontri in Iran nell'anniversario della rivoluzione islamica. Laura Bettini, quali sono le ultime, delle brutte ultime tra l'altro? Sì, le brutte ultime viaggiano sul web, come tutte le notizie che stanno arrivando in queste ore dall'Iran, poiché i giornalisti stranieri non sono stati ammessi alle celebrazioni. Da Twitter è arrivata poco fa la notizia dell'uccisione di una giovane, Leila Zarei, 27 anni, sarebbe morta negli scontri con le milizie Basiji, come Neda, la giovane uccisa durante le manifestazioni del giugno scorso. Le forze di sicurezza avrebbero oggi poi aggredito anche il leader riformista Mehdi Karroubi e l'ex presidente Mohammed Khatami, sarebbe stato arrestato anche il figlio di Karroubi. Brutte notizie che purtroppo attendevamo, ha detto il ministro degli Esteri Frattini. Sentiamolo. La nostra grande preoccupazione aumenta ancora se sono vere le notizie dell'ex presidente Khatami, addirittura ferito durante gli scontri, figlio dell'ex primo ministro Karroubi arrestato. Sono quelle brutte notizie che purtroppo attendevamo. È il momento che l'Iran la smetta con questa violenza. Noi non interferiamo negli affari interni, ma questi sono diritti fondamentali ed assoluti che tutta la comunità internazionale vuole vedere rispettati. Dal palco delle celebrazioni oggi Ahmadinejad ha arringato la folla con i consueti cavalli di battaglia, programma nucleare, l'arricchimento dell'uranio. Ha detto potremmo avere la bomba atomica, ma non ci interessa. Poi ha parlato di Israele, che si starebbe avvicinando alla distruzione, e di Stati Uniti, che ha detto stanno perdendo l'occasione di agire correttamente. A te. Grazie a Laura Bettini. Invece noi ci trasferiamo a Roma, ci trasferiamo da Savino Gallo, perché appunto a Roma è in corso la manifestazione contro il regime iraniano promossa dal Comitato Iran Libero. Savino. Sì, buongiorno. Qui a Montecitorio la manifestazione organizzata dal Comitato comincerà alle 13.30 fra qualche minuto. Dunque dovrebbe arrivare il grosso dei manifestanti, attese più o meno 400 persone, tra cui anche una decina di parlamentari che hanno confermato la loro partecipazione. Intanto alcuni membri del Comitato hanno cominciato a disporre bandiere e striscioni. Qui al mio fianco c'è Mahmoud Hakamian, membro della Commissione Esteri della Resistenza Iraniana, e a lui proprio chiedo le ultime notizie su Teheran. Iran. Buongiorno, sì, come quelli che abbiamo notizie dall'Iran, stamattina ho cominciato gli scontri fra i manifestanti con gli agenti della sicurezza del regime iraniano. Quelli che abbiamo notizie sono stati arrestati decine di persone, anche molti feriti, che non abbiamo il numero precisi, però sappiamo che c'era in vari luoghi della città, per esempio a piazza Wanaj, piazza Sadeghie e poi vicino alla piazza della Ribelta, dove c'era Ahmadinejad, stava parlando, e poi non c'era solo a terra, anche grandi città come Yaz, come Tabriz c'erano manifestanti, e poi scontri fra i Basigi e con manifestanti che sempre gli davano morte al dittatore Abbaso Khamenei, quello stavo capo religioso, e noi vogliamo la libertà e democrazia per l'Iran, è un cambiamento democratico con la resistenza. Qui, come ha detto, siamo a Montecitorio, cioè comincia fra poco la manifestazione della resistenza iraniana, che ci saranno anche i deputati e persone italiane. Grazie, grazie a Savino Gallo. Dunque, noi veniamo invece all'inchiesta sulla protezione civile. Se ha senso delle istituzioni, Bertolaso dovrebbe dimettersi, ha detto stamattina il capogruppo del PD Franceschini. L'inchiesta, come sapete, prende il via da alcune intercettazioni. La storia di ordinaria corruzione, come la definisce nell'ordinanza di arresto il GIP di Firenze, Rosario Lupo, parte da un'intercettazione. Si fiutano affari edilizi poco chiari e si passa da una conversazione telefonica all'altra. Sul filo corrono, secondo gli investigatori, appalti per grandi eventi in cambio di soldi contanti e prestazioni sessuali, ovvero la contropartita che avrebbe ottenuto il sottosegretario Guido Bertolaso. Lui è indagato per corruzione. In carcere finiscono Angelo Balducci e Fabio De Santis, due funzionari pubblici incaricati della gestione dei grandi eventi. Mauro Della Giovan Paola, addetto alle opere per i 150 anni dell'Unità d'Italia, e un imprenditore romano, Diego Anemone. Bertolaso intrattiene rapporti, secondo i magistrati, proprio con Anemone o con i suoi collaboratori. Ah, ciao, sono Guido, buongiorno. Sono atterrato in questo istante dagli Stati Uniti. Se oggi pomeriggio, se Francesca potesse, io verrei volentieri, una ripassata. Perché so che è sempre molto occupata, siccome oggi pomeriggio sono abbastanza libero, ti richiamo fra un quarto d'ora. Qui le presunte prestazioni sessuali, ma c'è dell'altro. Anemone avrebbe beneficiato dell'inserimento delle sue imprese nei lavori del post-terremoto in Abruzzo. Alla Ferratella, occupati di sta roba del terremoto, perché qui bisogna partire in quarta subito. Non è che c'è un terremoto al giorno. Per carità, poveracci. Io stamattina ridevo alle 3:30 dentro al letto. Questa conversazione avviene poche ore dopo il sisma fra due imprenditori coinvolti nell'inchiesta, e da qui i magistrati capiscono che c'è attesa per le mosse di Angelo Balducci sugli appalti. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. Gli appalti sotto la lente degli investigatori riguarderebbero anche il G8 inizialmente previsto alla Maddalena, poi spostato all'Aquila. Dunque, della ristrutturazione della località sarda, Bertolaso aveva parlato qualche tempo fa con la nostra Raffaella Calandra. Noi alla Maddalena abbiamo restituito a quel territorio, un arcipelago che è patrimonio dell'umanità, un gioiello assoluto rispetto a quel dente cariato che era l'arsenale della Marina Militare nel giorno in cui io l'ho rilevato per rimettere a posto. Era una realtà piena di amianto, di idrocarburi esausti, di ferro, di vecchie carcasse di macchine, di barche in stato di totale abbandono. Noi ne abbiamo fatto un centro nautico, soprattutto per la vela, di livello mondiale, tant'è vero che gli organizzatori della Coppa America, quando sono venuti a vederlo per fare delle regate, hanno detto non abbiamo mai visto una sede migliore per fare la Coppa America, e questo a memoria futura credo che sia un bel segnale. Al Senato stasera alle 19 il voto di fiducia sul decreto mille proroghe. A Palazzo Madama è stato fissato per le 19 di questa sera il voto di fiducia chiesto dal governo sul decreto mille proroghe, il provvedimento che prevede una lunga serie di norme che riguardano diverse materie. Fra le novità delle ultime ore c'è l'uscita di quella che concedeva alle regioni 3 anni di tempo in più per attuare i piani di rientro della spesa sanitaria. Altra novità quella che prevede l'indicazione sulla carta di identità del consenso dissenso o del diniego alla donazione dei propri organi in caso di morte. Resta fuori invece dal decreto la proroga, richiesta in modo bipartisan, dell'entrata in vigore delle norme previste dalla finanziaria che cancellano il diritto soggettivo nella ripartizione dei fondi per l'editoria, cosa che metterebbe in difficoltà oltre 100 piccole testate giornalistiche, motivo per il quale la Federazione Nazionale della Stampa e il Sindacato dei Giornalisti ha minacciato uno sciopero. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Berlusconi, la legge sulla par condicio va abolita. Siete d'accordo? Era questo il tema del nostro sondaggio di oggi. Lui, il principale autore del regolamento che ha mandato in fibrillazione i conduttori di talk show Rai, si dice orgogliosissimo di averlo messo a punto. È l'onorevole Marco Beltrandi, fautore della norma che impone nell'ultimo mese prima delle regionali di far rispettare la par condicio nei vari porta a porta o Ballarò o Anno Zero, e che alle accuse di volere imbavagliare l'informazione risponde deciso. Per sogno, questa è una menzogna di questi signori strapagati, soltanto perché questi si erano abituati da anni a fare tutti i loro comodi in Rai come se fosse casa loro. Berlusconi invece definisce la par condicio una legge liberticida e vorrebbe abolirla. Nel sondaggio di oggi vi chiedevamo proprio questo: voi cancellereste questa legge? Ma il 66% dice di no. Bianco Nero torna domattina alle 8.30 e per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed ora, prima degli aggiornamenti su quanto sta accadendo su strade e autostrade, un punto sul maltempo che proprio non vuole mollare l'Italia. Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. Una nuova ondata di maltempo provocata in gran parte da aria molto fredda di provenienza artica si è abbattuta sull'intera penisola e almeno fino a domani sono previste nevicate fino a quote basse e temperature in diminuzione, oltre a venti forti e piogge. Non si registrano disagi particolari, anche se dalle prime ore di oggi nevica su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia. In serata poi è prevista neve anche al centro-sud e a livello del mare su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e sulla Sardegna. E il mare troppo freddo potrebbe essere la causa di una moria di sardine nelle Marche, in provincia di Pesaro Urbino. La pioggia battente in Calabria ha causato frane e smottamenti, soprattutto nel Catanzarese, nel Cosentino, e si registra poi vento forte a Trieste, dove la bora ha raggiunto i 130 km orari, e bufere di neve in Carnia e nel Tarvisiano. E sempre per il vento forte ed il mare forza 8 in Sicilia, da ieri sera sono bloccati i collegamenti con le isole Eolie. È tutto, linea allo studio. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dell'accordo trovato a Bruxelles sugli aiuti alla Grecia. Il cancelliere tedesco Merkel ha detto poco fa: non lasceremo cadere Atene, ma dovrà esserci il rispetto delle regole comuni sui deficit. Poi vi abbiamo aggiornato su quanto sta accadendo purtroppo in Iran: scontri, spari in piazza nell'anniversario della rivoluzione islamica, e sul web rimbalza una notizia inquietante: sarebbe stata uccisa un'altra giovane donna. E riprendiamo invece parlando di Fiat, che punta a diventare il secondo gruppo automobilistico in Russia, producendo fino a 500.000 veicoli l'anno entro il 2016, grazie alla joint venture con la Sollers negli stabilimenti di Tatarstan. Nel mercato russo saranno commercializzati 9 nuovi modelli e sono attesi in queste ore l'amministratore delegato del Lingotto Sergio Marchion e del collega di Sollers alla presenza del primo ministro russo Vladimir Putin. E all'Italia rilancia su Malpensa, fra pochissimo sentiremo perché. Invece dagli aerei ai treni, le ferrovie tedesche e austriache hanno presentato le nuove strategie sul mercato italiano. In diretta Marco Lignana. Sì, buongiorno. Una vera e propria sfida, quella lanciata poco fa dalle ferrovie tedesche a Trenitalia. In pratica la Deutsche Bahn, questo è il nome della compagnia statale in Germania, ha presentato quello che in verità già accade da 2 mesi, ovvero 10 collegamenti tra Monaco di Baviera e il nord Italia. Questi collegamenti sono realizzati in collaborazione con le ferrovie austriache e con le Nord, cioè l'azienda storica del trasporto regionale lombardo. Ma quali sono le tratte percorse? L'offerta consiste in 2 coppie di treni fra Monaco e Verona, una fra Monaco e Bologna, una fra Monaco e Milano e infine una tra Monaco e Bolzano. Quindi se è vero che i collegamenti con il Brennero ci sono sempre stati, la verità importante è che oggi se un passeggero volesse viaggiare in treno entro i confini del paese, ad esempio fra Bologna e Verona, ecco che potrebbe scegliere un'alternativa a Trenitalia. Deutsche Bahn lancerà ora una campagna pubblicitaria aggressiva e offerte super scontate proprio per catturare nuovi clienti sul territorio italiano. Insomma, la sfida Trenitalia lanciata, da qui è tutto, vi restituisco la linea. E noi ti ringraziamo, Marco Lignana. Nella giornata mondiale del malato, il Papa auspica un mondo più capace di accogliere e curare i malati come persone. Benedetto XVI ha celebrato una messa a San Pietro e ha sottolineato che la misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e il sofferente. Questo vale per il singolo come per la società. 4 anni in un campo di concentramento, sottoposta ad esperimenti di medici nazisti, la guarigione miracolosa da un cancro per intercessione di Padre Pio, ma soprattutto il rapporto straordinario di amicizia fra lei e Papa Wojtyla. C'è tutto questo in Diario di un'amicizia, edito da San Paolo, di Wanda Poltaska, la raccolta di lettere inedite fra la dottoressa polacca, migliore amica di Giovanni Paolo, e il pontefice, appunto. Lettere che non hanno mancato di suscitare polemiche. Può infatti esistere un rapporto così fra una donna e un papa? Sentiamo la Poltaska al microfono di Katia Caramelli. Se non si crede in amicizia pura, come si può credere per esempio in verginità? Come si può credere a celibato? Santo Padre diceva di celibato sacerdotale, sempre celibato sacro. Tutto è possibile con grazie di Dio e pari con cervello umano, perché se Cristo dice amatevi tutti, non si può amare tutti come moglie e come marito. Siamo tutti figli di un padre, Padre Celeste. Allora si deve amare come si fa fratello e sorella, niente altro. Santo Padre diceva fai il suo corpo sottoposto al spirito. Lui diceva aprite occhi dell'anima, perché occhi del corpo vedono altre cose che occhi dell'anima. E lui mostrava che è possibile. Non posso dire che io ricordo, io sono in contatto con lui. Anche io, la mia promessa è non sarò mai sola, che lui sarà sempre con me. Posso dire che sono sicura che anche qui sotto le mie spalle. Voi non vedete, poi non credete, io sì. E potrete ascoltare l'intervista a Wanda Poltaska in Riflessi d'Oltretevere in onda domenica alle 7:20. E dunque l'Italia rilancia su Malpensa, come dicevamo, ci colleghiamo con Giovanni Capuano. Ebbene sì, dunque l'Italia torna a Malpensa, torna con un piano strategico a quasi 2 anni dallo strappo che provocò il de-hubbing dello scalo varesino. Non torniamo per fare un piacere a qualcuno, ma solo perché c'è un progetto che può produrre degli utili, ha detto il presidente Colaninno, che ha anche confermato come l'Italia ha chiuso il 2009 in rosso di circa 280 milioni di euro, una perdita che è stata però giudicata moderatamente e soddisfacente. Cosa succederà a Malpensa? L'Italia avrà 5 destinazioni intercontinentali, sacrifica San Paolo e parte dei voli per New York, ma recupera ad esempio la tratta Milano-Miami, e poi Air One che farà concorrenza alle compagnie low cost. Arrivano infatti le tratte a basso costo a partire da 25-29 euro, però hanno detto i vertici di Alitalia, con servizi di livello più elevato. Ci saranno sacrifici nelle tratte per il Nord Africa, grande attenzione invece a Spagna, Grecia, tutte le tratte servite dal turismo, e poi per il Sud Italia. L'obiettivo dichiarato entro il 2012 è raddoppiare il numero dei passeggeri Alitalia da Malpensa fino a 3 milioni, un terzo del totale del sistema aeroportuale milanese. E da Malpensa è tutto, linea allo studio. Grazie a Giovanni Capuano. Un bilancio in controtendenza, quello del Presidente del Consiglio di Stato Paolo Salvatore, che ha parlato all'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. La giustizia amministrativa registra un saldo attivo per il 2009 ed è in grado di rispondere alle domande dei cittadini. Resta però il pesante macigno dell'arretrato, 630.000 procedimenti pendenti. Salvatore, poi intervenuto sui rapporti fra politica e giustizia, occorre evitare contrapposizioni strumentali. Sentiamo un passaggio del suo intervento. Il tema dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini ci coinvolge tutti. Occorre che la classe politica, le forze sociali, i cittadini abbiano la consapevolezza delle radici comuni in tema di valori e di regole. Lo sviluppo di tutte le tipologie di relazioni, come la storia insegna, richiede una libera e solidale assunzione di responsabilità da parte di tutti. Anche nell'ambito delle relazioni tra pubblica amministrazione e cittadini occorre che tutti, al di là dei singoli momenti e dei ruoli che siamo chiamati a svolgere, si sentano impegnati a realizzare le aspirazioni di progresso che costituiscono certamente l'obiettivo di tutti noi. Dichiarato il fallimento della Design Burani Holding, la società olandese che controlla FBG, la casa madre dell'impero di Mariella Burani. E dalla moda al design, presentato questa mattina a Milano il Salone del Mobile. Ci colleghiamo con Maria Luisa Pezzali. Luisa. Sì, buongiorno Piera, a te gli ascoltatori, buongiorno. L'evento è tornato, il claim di questa 49esima edizione del Salone del Mobile che si terrà a Milano dal 14 al 19 aprile, evento clou del settore che fa di Milano da anni ormai la capitale del design a livello internazionale. A margine della presentazione che si è tenuta al Teatro Grassi di Milano con un talk show per così dire molto unconventional, ospiti Piero Chiambretti, Ricky Tognazzi, Margherita Bui, a margine della presentazione, dicevo, tiene banco la polemica sulla eventualità di organizzare una biennale del design a Venezia. Ebbene, da qui, dal quartier generale del Salone 2010, il messaggio è chiaro: spero che non sia vero, una vera idiozia, ci ha detto Carlo Guglielmi, il presidente di Cosmit, che è l'ente che organizza il salone. Il design sull'acqua non galleggia, gli ha fatto eco con una battuta il presidente di Federlegno Messina, e il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha detto: Milano è il design è Milano e continuerà ad esserlo. Design ma anche moda, il sindaco ha fatto riferimento anche alle polemiche sul calendario di Milano Moda Donna. Nessuno, neanche se si chiama Anne Wintour, ha detto deve permettersi di disfarlo. È tutto, lì allo studio. Grazie a Luisa Pezzali. Smantellata nel Bresciano una rete che produceva e smerciava sostanze dopanti, sequestrate circa 1 milione di dosi prodotte in 10 laboratori clandestini da parte dell'organizzazione che aveva referenti in Italia e in una decina di altri paesi, fra cui la Moldavia, da cui arrivavano sostanze a base di ormoni. 8 gli arresti. E ci sarebbero i primi casi di doping alla vigilia dell'apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Vancouver. Le Olimpiadi di Vancouver non sono ancora cominciate, ci sono già 30 casi di positività al doping, un numero senza precedenti nella storia Cinque Cerchi. Lo ha comunicato poche ore fa John Fay, presidente della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, in una relazione presentata mercoledì all'Assemblea Generale del CIO. Mark Adam, portavoce del Comitato Olimpico Internazionale, ha detto che verranno fatte indagini sugli staff, allenatori, medici e preparatori fisici legati agli atleti coinvolti, di cui non si conoscono ancora nomi e nazionalità. Per oggi è prevista una conferenza stampa della WADA da cui si attendono nuovi particolari. Sembra probabile che i test in questione siano stati effettuati prima del 4 febbraio, visto che da quella data in poi, sotto la responsabilità del CIO, sono stati effettuati 554 controlli, 407 campioni di urine e 147 di sangue, tutti negativi, come rivelato nei giorni scorsi. Dario Puppo, GR24, sulle 24 ore. Questo notiziario è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadore. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.